Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La locanda della tormenta presenta Conan, l'ombra che scivola, di Robert Howard. Buon ascolto. Uno. Ondate di calore vibravano sul deserto. Conan il cimmero osservò quella distesa desolata e involontariamente si passò il dorso della mano sulle labbra annerite. Stava ritto fra le dune sabbiose come una statua di bronzo, apparentemente insensibile al sole omicida, anche se indossava soltanto un perizoma di seta sorretto da un'ampia cintura col fermaglio d'oro, dalla quale pendevano una sciabola e un pugnale a lama larga. Sulle membra ben proporzionate erano evidenti i segni di ferite non completamente rimarginate. Ai suoi piedi riposava una ragazza, aggrappata con una mano pallida al suo ginocchio, al quale teneva appoggiata la testa bionda. La pelle bianca di lei contrastava con le membra bronzee del cimmero. La corta tunica di seta, molto scollata e senza maniche, allacciata in vita, ne metteva in risalto, anziché nasconderlo, il corpo flessuoso. Conan scosse la testa battendo le palpebre. Il bagliore del sole quasi lo accecava. Alzò la piccola borraccia che portava appesa alla cintura e la scosse, aggrottando le sopracciglia al debole sciacquio che ne veniva fuori. La ragazza si mosse senza energie, lamentandosi. Conan, ci toccherà morire qui. Ho tanta sete. Il cimmero grugnì senza parlare, guardando truce il deserto che lo circondava, col mento in fuori e gli occhi azzurri che lanciavano fiamme selvagge da sotto la chioma nera e scompigliata, come se il deserto fosse un nemico tangibile. Si chinò e accostò la borraccia alle labbra della ragazza. «Bevi finché non ti dico basta, Natala», ordinò. Lei bevve a piccoli sorsi affannosi e Conan non la fermò. Solo quando la borraccia fu vuota, la ragazza si rese conto che le aveva permesso deliberatamente di bere tutta la loro provvista d'acqua, per quanto scarsa fosse. Le spuntarono le lacrime. «Conan, perché me l'hai lasciata bere tutta? Io non sapevo. Ora per te non ce n'è più». «Taci! Non sciupare le forze per piangere». Si rialzò e buttò via la borraccia. «Perché la butti?» Conan non le rispose e rimase fermo, con le dita che si stringevano lentamente all'elsa della sciabola. Non guardava la ragazza. Sembrava che i fieri occhi scandagliassero il riverbo purpureo della distanza. Dotato come tutti i barbari di una selvaggia voglia di vivere, sapeva tuttavia riconoscere quando era giunto al termine della strada. Non era ancora ridotto ai limiti della sopportazione, ma sapeva che un altro giorno sotto il sole spietato di quella distesa desolata l'avrebbe buttato a terra. In quanto alla ragazza, aveva sofferto abbastanza. Era meglio un colpo di spada rapido e indolore che non l'agonia prolungata che li aspettava. Per il momento la sete della ragazza si era calmata, ma era falsa pietà lasciarla soffrire finché il delirio e la morte non le avessero portato sollievo. Lentamente fece scivolare il fermaglio che assicurava la sciabola al fodero. Improvvisamente si fermò, irrigidendosi. Lontanissimo verso sud, fra le ondate di calore del deserto, c'era qualcosa che brillava. Sulle prime pensò ad un'illusione, a uno di quei miraggi che l'avevano preso in giro fino alla pazzia, in quel maledetto deserto. Schermandosi gli occhi abbagliati dal sole, riuscì a distinguere guglie e minareti e mura splendenti. Li osservò corrucciato, aspettandosi che impallidissero e svanissero. Natala aveva smesso di singhiozzare. Si tirò su in ginocchio a fatica, seguendo il suo sguardo. Conan, è una città. Il cimmero stette un attimo senza rispondere. Chiuse gli occhi e li riaprì diverse volte. Distolse lo sguardo e tornò a puntarlo verso sud. La città stava sempre dove l'aveva vista per la prima volta. Lo sa il demonio. Comunque vale la pena di tentare, credo. Spinse di nuovo la sciabola nel fodero. Si chinò e sollevò Natala fra le braccia robuste come fosse una bambina. La ragazza si oppose debolmente. Non sprecare le forze portandomi in braccio, Conan. Posso camminare? Il terreno si sta facendo più roccioso. Ti ridurrai i sandali a pezzi. Se vogliamo raggiungere la città, dobbiamo farlo in fretta. Portandoti si fa prima. Quella possibilità di vita gli aveva dato un nuovo vigore e ritemprato i muscoli d'acciaio. Si mise a camminare sulla sabbia del deserto come se avesse appena cominciato quel viaggio. Figlio di generazioni di barbari, possedeva la vitalità e la sopportazione del primitivo che gli permettevano di sopravvivere dove un individuo civile sarebbe invece perito. Lui e la ragazza, per quanto ne sapeva, erano gli unici sopravvissuti dell'esercito del principe Almoric, quell'orda pazzesca ed eterogenea che al seguito dello sconfitto principe di Kot si era riversata nelle piane di Shem come una tempesta di sabbia devastatrice e aveva inondato di sangue gli estremi confini della Stigia. Inseguito da un esercito stigiano, l'orda si era aperta la strada attraverso il tenebroso regno del Kush, ma solo per essere distrutta ai margini del deserto meridionale. Conan l'aveva paragonata a un grande torrente che si assottigliava lentamente scorrendo verso sud per prosciugarsi infine fra le aride sabbie del deserto. Le ossa dei suoi componenti, mercenari, fuorilegge, disperati, sbandati, giacevano sparpagliate dalle colline del Kot fino alle dune del deserto. Nel massacro finale, quando stigiani e cusciti erano venuti a contatto con i resti dell'ordo ormai in trappola, Conan era riuscito ad aprirsi la strada e a fuggire con la sola ragazza su. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edred. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Un cammello. Dietro di loro la zona pullulava di nemici. L'unica direzione libera era quella del deserto. E i due si erano tuffati in quell'immensità minacciosa. Conan aveva trovato la ragazza, una brituniana, nel mercato degli schiavi di una città scemita che avevano assalito e se n'era appropriato. Non che lei avesse potuto dire la sua al riguardo, ma la sua nuova posizione era talmente superiore al destino di qualsiasi donna iboriana in un serraglio scemita che l'aveva accettata con gratitudine. Così aveva partecipato all'avventura dell'orda sventurata di Almoric. Erano fuggiti nel deserto per giorni interi, inseguiti per miglia e miglia dai cavalleggeri stigiani, tanto che dopo aver eluso l'inseguimento non avevano avuto il coraggio di tornare indietro. Così erano andati avanti cercando acqua finché il cammello era morto. Da allora avevano continuato a piedi. Negli ultimi giorni le loro sofferenze erano state intense. Conan aveva protetto Natala come poteva e la dura vita del campo militare le aveva dato più forza e resistenza di quanta non ne possiedano le donne comuni. ma anche così la ragazza stava quasi per crollare. Il sole batteva fieramente sulla chioma nera e arruffata di Conan. Ondate di vertigine e nausea gli montavano alla testa, ma lui stringeva i denti e procedeva incrollabile. Era convinto che la città fosse reale, non un miraggio, ma non aveva la minima idea di cosa ci avrebbe trovato. Gli abitanti potevano essere ostili, tuttavia c'era la possibilità di lottare, e questo era il massimo che avesse mai chiesto. Il sole era prossimo a tramontare quando si fermarono di fronte alla porta massiccia della città, grati per l'ombra. Conan posò a terra Natala e si stirò le braccia doloranti. Su di loro torreggiavano le mura, alte una trentina di piedi, composte di un materiale verdastro e levigato che riluceva quasi come vetro. Conan scrutò attentamente i parapetti aspettando un'intimazione di chi va là, ma non vide nessuno. Spazientito lanciò un richiamo e batté sul portone con l'elsa della sciabola. Gli rispose soltanto l'eco sorda e sfottente. Natala gli si aggrappò addosso, impaurita dal silenzio. Conan tentò il portone e indietreggiò sfoderando la scimitarra, mentre i battenti scivolavano silenziosi verso l'interno. Natala soffocò un grido. «Guarda, Conan!» Proprio nel vano della porta giaceva un corpo umano. Conan lo osservò con le sopracciglia aggrottate, poi diede un'occhiata in giro. Vide un ampio spiazzo aperto come un cortile, delimitato da ingressi ad arco che immettevano in edifici costruiti con lo stesso materiale verdastro delle mura esterne. Quelle case erano alte e imponenti, adorne di cupole scintillanti e minareti. Non c'era segno di vita. Nel centro del cortile c'era il parapetto quadrato di un pozzo, la cui vista colpì Conan, che aveva la bocca impastata di polvere secca. Afferrò il polso di Natala e la trascinò attraverso la porta, chiudendosela alle spalle. «È morto!» chiese la ragazza in un sussurro, indicando tremante l'uomo che giaceva davanti alla porta. Il corpo era quello di un individuo alto e robusto, apparentemente nel fiore degli anni. La pelle era gialla, gli occhi leggermente allungati. Per il resto differiva poco dal tipo eboriano. Aveva addosso un paio di sandali allacciati molto alti e una tunica di seta purpurea. Dalla cintura gli pendeva una corta spada in un fodro intessuto d'oro. Conan gli toccò la pelle. Il corpo era freddo e non dava segni di vita. Non ha neppure una ferita, ma è decisamente morto. Morto quanto Almuric con 40 frecce stigiane in corpo. Nel nome di Crom, badiamo al pozzo piuttosto. Se c'è acqua potremo finalmente bere, morto o non morto. Nel pozzo l'acqua c'era, ma non riuscirono a bere lo stesso. Il livello era 50 piedi abbondanti dal muretto e non c'era nulla per attingerla. Conan imprecò sordamente, abbruttito dalla vista dell'acqua appena fuori portata, e si girò per cercare un mezzo qualsiasi per raggiungerla. Un grido di Natala lo riportò alla realtà. L'uomo che aveva considerato morto gli si stava avventando contro, con gli occhi fiammeggianti di indiscutibile vita, la corta spada che gli brillava in pugno. Conan imprecò stupito, ma non sprecò tempo in congetture. Colpì l'attaccante con un fendente della sciabola che squarciò carne e ossa. La testa dell'uomo cadde sulle lastre di pietra. Il corpo barcollò come ubriaco, con un getto di sangue che sgorgava dalla giugulare recisa, e cadde pesantemente. Conan lo osservò bestemmiando sottovoce. «Quest'uomo è altrettanto morto ora quanto non lo era pochi minuti fa! In che razza di manicomio siamo capitati?» Natala, che si era coperta gli occhi con le mani per non vedere, sbirciò attraverso le dita, tremante di paura. «Oh, Conan! Gli abitanti della città non ci uccideranno per quello che hai fatto!» «Beh, ci avrebbe ucciso lui se non gli avessi mozzato la testa io!» Lanciò un'occhiata alle porte che si spalancavano vuote nei palazzi che li circondavano. Non scorse l'ombra di un movimento, non sentì alcun suono. «Penso che nessuno ci abbia visti. Ad ogni modo nasconderò le prove!» Alzò il corpo inerte afferrandolo per la cintura mentre con l'altra mano agguantava la testa per i lunghi capelli, e in parte portò, in parte trascinò gli orribili resti fino al pozzo. «Visto che non posso bere quest'acqua, farò in modo che nessun altro abbia il piacere di berla. Maledetti pozzi così stupidi!» Alzò il corpo oltre il muricciolo e lo lasciò cadere, tirandogli dietro la testa. Dal pozzo provenne un tonfo sordo. «Ci sono macchie di sangue sulle pietre!» «Ce ne saranno di più se non trovo subito acqua!» Latrò il cimmero, che aveva ormai esaurito la scarsa riserva di pazienza. Piena di paura, la ragazza aveva quasi dimenticato la sete e la fame, ma Conan no. «Entreremo in una di queste case, prima o poi troveremo qualcuno!» «Oh, Conan, sono spaventata! È una città di fantasmi e di morti! Torniamo nel deserto! Meglio morire laggiù che affrontare questi orrori!» «Andremo nel deserto quando ci butteranno fuori di qui! C'è acqua da qualche parte nella città e io la troverò!» Ufficio Soluzioni Esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Tethered, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Tethered. Con il 40% di sconto su 40 prodotti, la Pasqua alla Coop è più buona per il tuo portafogli e anche per me e il mio coniglietto. Buona Pasqua a tutti! Scopri il negozio e i prodotti in sconto. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 21 aprile. La Coop sei tu. Dovessi uccidere ogni uomo che incontro. Cosa succederà se torneranno di nuovo in vita? Continuerò a ucciderli finché non se ne staranno ben morti. Vieni, questa casa va bene quanto un'altra. Stai dietro di me, ma non metterti a correre finché non te lo dico io. Natala mormorò una debole frase di assenso e lo seguì così da vicino da camminargli sui talloni, facendolo imbestialire. Era sceso il crepuscolo, riempiendo di ombre purpuree la strana città. I due varcarono la porta spalancata e si trovarono in un'ampia stanza, alle cui pareti erano appesi drappi di velluto lavorato a disegni insoliti. Pavimento, pareti e soffitto erano fatti di quella pietra verdastra e vetrosa. Le pareti erano adorne di fregi dorati. Il pavimento era cosparso di pellicce e cuscini di seta. C'erano parecchie porte che davano in altre stanze in tutto simili alla prima. Non videro nessuno, ma il cimmero borbottò sospettoso. «Qualcuno era qui non molto tempo fa. Questo letto è ancora tiepido per il contatto di un corpo umano. Quel cuscino di seta ha ancora l'impronta del fianco di qualcuno. E poi... c'è una debole traccia di profumo nell'aria». Ogni cosa era pervasa da un'atmosfera misteriosa e irreale. Percorrere quel palazzo cupo e silenzioso ricordava un sogno provocato dall'oppio. Alcune delle stanze non erano illuminate e loro le evitarono. Altre erano immerse in una luce soffusa e misteriosa che sembrava emanata da gioielli incastonati nelle pareti secondo disegni fantastici. Ad un tratto, mentre attraversavano una di queste stanze, Natala gridò e si afferrò al braccio del cimmero. Con un'imprecazione Conan si voltò, aspettandosi di trovare un nemico, e stupito di non vederne. «Cosa c'è? Se mi afferri di nuovo la destra ti scortico viva! Vuoi vedermi con la gola tagliata? Perché strillavi?» «Guarda lì sopra!» Conan grugnì. Su un tavolo di ebano levigato c'erano stoviglie d'oro che pareva contenessero cibi e bevande. La stanza era vuota. «Bene, chiunque sia l'invitato a questa cena dovrà rivolgersi altrove stasera!» «Dobbiamo fidarci a mangiare, Conan. Gli abitanti possono piombarci addosso e...» «Lir an manna mammaklir!» imprecò Conan, afferrandola per la nuca e spingendola senza tante cerimonie su una sedia dorata a un capo della tavola. «Stiamo morendo di fame e ti metti a fare obiezioni. Mangia!» Si sedette sulla sedia dall'altro capo della tavola, prese un bicchiere di giada e lo vuotò in un solo sorso. Il contenuto era un liquore rossastro simile a vino, con un gusto forte che non gli era familiare, ma era come nettare per la sua gola in carta pecorita. Alleviata la sete, attaccò il cibo che aveva davanti con raro appetito. Anche quelle pietanze erano insolite, frutti esotici e carni sconosciute. Le stoviglie erano opera di squisito artigianato, al pari dei coltelli e delle forchette d'oro. Ma Conan ignorò le posate, afferrando con le dita i pezzi di carne dai quali strappava bocconi con i denti robusti. Il comportamento a tavola del cimmero era in ogni circostanza piuttosto da lupo. La ragazza era più civile, mangiava con maggior delicatezza, ma con uguale voracità. Conan fu colto dall'idea che il cibo potesse essere avvelenato, ma quel pensiero non gli diminuì l'appetito. Preferiva morire di veleno che di fame. Calmata la fame, il cimmero si allungò all'indietro con un profondo sospiro di sollievo. L'esistenza di esseri umani nella città silenziosa era messa in evidenza dalla presenza di cibo fresco e probabilmente ogni angolo buio nascondeva un nemico in agguato. Ma la cosa non lo preoccupava, perché aveva una grande fiducia nella propria abilità di combattente. Cominciò a sentirsi pieno di sonno e considerò l'idea di stendersi sul letto lì vicino per un sonnellino. Ma Natala non era di quell'idea. Non aveva più fame e sete, ma non sentiva nessun desiderio di dormire. Teneva i graziosi occhi ben aperti, guardando timidamente i vani delle porte come fossero i confini dell'ignoto. Era oppressa dal silenzio e dal mistero di quello strano palazzo. La stanza le sembrava più larga e la tavola più lunga di quanto non avesse pensato all'inizio, e si rendeva conto di essere più lontana dal suo sinistro protettore di quanto non le sarebbe piaciuto stare. Scattò in piedi, fece il giro della tavola e si andò a sedere sulle ginocchia del cimmero, lanciando occhiate nervose alle porte. Alcune erano illuminate, altre no, ed era quelle buie che ella guardava più a lungo. «Abbiamo mangiato, bevuto e ci siamo riposati. Lasciamo questo posto, Conan. È un luogo malefico. Lo sento.» «Beh, finora non ci è capitato niente di male», cominciò lui quando la sua attenzione fu invece attratta da un fruscio leggero ma sinistro. Allontanando la ragazza da sé, balzò in piedi con la rapidità di una pantera, sguainando la sciabola e guardando la porta dalla quale era sembrato provenire il rumore. Il fruscio non si ripeté. Conan avanzò furtivamente senza far rumore, mentre Natala lo seguiva col cuore in gola. La ragazza sapeva che il cimmero sospettava un pericolo. Teneva la testa in avanti, quasi affondata fra le spalle enormi, e scivolava in avanti semipiegato, come una tigre pronta al balzo, e non faceva più rumore di quanto ne avrebbe fatto una tigre. Giunto alla porta, si fermò, con Natala che spiava impaurita da dietro le sue spalle. Nella stanza non c'era luce, tranne quella che proveniva debolmente da dietro e che si riversava in un'altra stanza ancora. E in quest'ultima c'era un uomo sdraiato su un divano piuttosto alto. La soffice luce lo inondava, mostrando che era esattamente simile a quello che Conan aveva ucciso davanti al portone esterno, tranne che per i vestiti, che erano anche più ricchi, ornati di gioielli che brillavano nella luce spettrale. Era morto o solo addormentato? Di nuovo ci fu il debole fruscio sinistro, come se qualcuno avesse urtato contro uno dei drappi appesi alle pareti. Conan si tirò indietro, trascinando con sé Natala. Le mise una mano sulla bocca appena in tempo per impedirle di gridare. Da dove stavano non potevano più vedere il divano, ma riuscivano a scorgere l'ombra che esso proiettava contro il muro. E ora c'era un'altra ombra che si muoveva sulla parete, una macchia nera, gigantesca e informe. Conan sentì che i capelli gli si rizzavano stranamente mentre guardava. Per quanto l'ombra potesse essere distorta, sapeva di non aver mai visto uomo o bestia che ne proiettassero una uguale. Era tormentato dalla curiosità, ma un qualche istinto lo teneva inchiodato al suo posto. Sentiva i rapidi ansiti di Natala, che osservava con gli occhi spalancati. Nessun altro suono disturbava quella quiete piena di tensione. La grande ombra inghiottì quella del divano. Per un lungo istante sulla parete levigata ci fu solo la grande macchia. Poi lentamente l'ombra più grande si allontanò e l'ombra del divano si stagliò ancora contro il muro. Ma il dormiente non c'era più. Un gorgoglio isterico proruppe dalla gola della ragazza e Conan la scosse per ammonirla. Non temeva avversari umani. Qualsiasi cosa di comprensibile, per quanto sinistra, non lo impauriva, ma sentiva che il sangue nelle vene gli si era fatto di ghiaccio. Ma ciò che era successo era al di là della sua comprensione. Tuttavia, dopo un po', la curiosità ebbe il sopravvento sull'inquietudine e Conan avanzò nella camera buia, pronto a qualsiasi cosa. Vide che era completamente vuota. Il divano era sempre dove l'aveva visto, tranne il fatto che sopra non c'era nessun uomo adorno di gioielli. Sul rivestimento di seta brillava una goccia di sangue, come una grande gemma scarlatta. Natala la vide e proruppe in un grido soffocato, senza che Conan si arrabbiasse. Sentiva di nuovo le gelide dita della paura attanagliarlo. Su quel divano era stato ucciso un uomo. Qualcosa era scivolato nella stanza e se l'era portato via. Cosa fosse, non ne aveva idea, ma in quella stanza incombeva un'aura di orrore soprannaturale. Era pronto ad andarsene. Afferrata Natala per la mano, si voltò e poi esitò. Da qualche parte, in una delle stanze che avevano attraversato, sentì il rumore di un passo. Il suono era stato provocato da un piede umano, nudo o calzato di pantofole. Conan, con la prudenza di un lupo, deviò rapido, convinto di poter raggiungere il cortile esterno, evitando la stanza dalla quale sembrava provenire il rumore. Ma non avevano ancora attraversato la prima stanza, seguendo il nuovo percorso, quando furono fermati da un fruscio di drappi di seta. Davanti a un'alcova con le tendine scostate c'era un uomo che li osservava attentamente. Era esattamente uguale agli altri che avevano incontrato. Alto, ben fatto, vestito di una tunica color porpora, con una cintura tempestata di pietre preziose. Nei suoi occhi color ambra non c'era né sorpresa né ostilità, ma un'aria sognante come quella dei mangiatori di loto. Non estrasse la corta spada che gli pendeva al fianco. E dopo un attimo di tensione, disse qualcosa, con un tono enormemente distaccato, in una lingua che i suoi ascoltatori non comprendevano. Conan rispose a caso in stigiano e lo straniero continuò in quella lingua. «Chi sei?» «Sono Conan, un cimmero, e questa è Natala, della Britunia. Che città è questa?» L'uomo non rispose subito. Tenne fermo lo sguardo sognante e sensuale su Natala, parlando poi con tono affettato. «Di tutte le mie splendide visioni, questa è la più strana. Da quale terra di sogno sei spuntata, ragazza dai riccioli d'oro? Da Andarra o da Totra o da Kut della fascia stellata?» «Che pazzia è questa?» brontolò il cimmero con asprezza, non trovando di suo gusto le parole e i modi dell'uomo. L'altro non gli prestò la minima attenzione. «Ho sognato bellezze più splendenti! Donne flessuose con i capelli neri come la notte e gli occhi cupi pieni di misteri insondati. Ma la tua pelle bianca è come il latte, i tuoi occhi chiari come l'alba, e attorno a te c'è una freschezza e una delicatezza che seducono come il miele. Vieni nel mio letto, dolce fanciulla di sogno!» Fece qualche passo avanti e allungò la mano per afferrarla. Ma Conan spinse via quella mano con una violenza da spezzargli il braccio. L'uomo indietreggiò, massaggiandosi il braccio intorpidito con gli occhi che si rannuvolavano. «Che razza di fantasma ribelle è questo? Barbaro, te lo ordino, sparisci! Svanisci, scompari, sparisci!» «Ti faccio sparire io la testa da sopra le spalle! È questo il benvenuto che date agli stranieri? Per Crom, inzupperò di sangue questi tendaggi!» L'aria sognante era sparita dagli occhi dell'uomo, sostituita da un'espressione di meraviglia. «Ertog, tu sei reale? Da dove sei venuto? Cosa fai a Xutal?» «Siamo venuti dal deserto. Siamo entrati nella città al crepuscolo morti di fame. Abbiamo trovato una cena preparata per qualcuno e ne abbiamo approfittato. Io non ho monete per pagarla. Nel mio paese non si nega il cibo a chi muore di fame. ma per voi uomini civili è sempre necessaria una contropartita, se siete uguali a tutti quelli che ho incontrato. Non abbiamo fatto niente di male e stavamo proprio per andarcene. Erkrom, non mi piace questo posto, dove i morti risorgono e gli addormentati svaniscono nel ventre delle ombre. L'uomo sobbalzò violentemente all'ultimo commento e la faccia gialla gli divenne color della cenere. «Cosa hai detto, ombre? Nel ventre delle ombre?» «Beh, ombra o qualunque cosa sia quella che rapisce un uomo da un divano e lascia solo una macchia di sangue!» «Tu hai visto! Tu hai visto!» L'uomo tremava come una foglia. La sua voce aveva raggiunto un tono acutissimo. «Ho visto solo un uomo che dormiva su un divano e un'ombra gigantesca che l'ha inghiottito!» L'effetto di queste parole sull'altro fu terrificante. Con un urlo spaventoso, l'uomo si girò e corse via dalla stanza. Nella fretta cieca carambolò contro lo stipite della porta, si rimise diritto e fuggì attraverso le stanze adiacenti, continuando a urlare a squarciagola. Conan rimase a guardare stupito, con la ragazza tremante che gli si era avvinghiata al braccio. Non riuscivano più a vedere la figura in fuga, ma ne sentivano le urla spaventose che si indebolivano in lontananza ed echeggiavano sotto i soffitti a volta. Improvvisamente ci fu un grido più acuto degli altri, brevissimo, e poi silenzio completo. «Per Crom, questa città è proprio un manicomio. Andiamocene da qui prima di incontrare altri pazzi!» «È tutto un incubo! Siamo già morti e dannati! Siamo morti nel deserto e ora siamo negli inferi! Siamo spiriti senza corpo!» «Ah!» Lo strillo era stato provocato da una sonora pacca che Conan le aveva mollato a mano aperta. «Che spirito sei, se basta un colpetto a farti strillare così? Siamo ben vivi, ma non lo saremo ancora per molto se continuiamo a perdere tempo in questo posto abitato da demoni. Andiamo!» Erano appena giunti in fondo alla stanza vicina quando si fermarono nuovamente di scatto. Qualcuno o qualcosa si stava avvicinando. Rimasero davanti alla porta dalla quale proveniva il rumore, aspettando non sapevano cosa. Conan allargò le narici e strinse gli occhi. Aveva afferrato la debole traccia del profumo che aveva notato già prima quella notte. Una figura si delineò nel vano della porta. Conan mandò un'esclamazione soffocata e Natala rimase a bocca aperta. Era una donna che si fermò a guardarli piena di stupore. Era alta, snella, proporzionata come una dea. Aveva attorno alla cintola una stretta fascia tempestata di pietre preziose. Una lucente massa di capelli neri come la notte metteva in risalto il candore del corpo d'avorio. Gli occhi scuri, ombreggiati da lunghe ciglia, sembravano abissi di mistero sensuale. A tanta bellezza, Conan trattenne il fiato e Natala rimase con gli occhi spalancati dallo stupore. Il cimmero non aveva mai visto una donna del genere. I lineamenti erano stigiani, ma non avevano il colorito bronzeo delle donne stigiane che aveva conosciuto, e il corpo era come di alabastro. Però, quando la donna parlò con voce profonda e musicale, si servì della lingua stigiana. «Chi sei? Cosa fai, Aksutal? Chi è quella ragazza?» «E tu chi sei?» «Sono Talis la stigiana. Sei pazzo a venire qui?» «Comincio a crederlo anch'io. Per Crom, se sono sano di mente, sono fuori posto qui, in questa gabbia di matti. Siamo arrivati dal deserto morti di fame e di sete e siamo subito capitati su un morto che ha cercato di colpirmi alle spalle. Entriamo nel palazzo ricco e lussuoso, ma apparentemente vuoto. Troviamo una cena ben preparata, ma non i commensali. Poi vediamo un'ombra che divora un uomo addormentato. Ebbene?» «Ebbene cosa?» «Mi aspettavo che anche tu ti mettessi a correre per il palazzo urlando come una pazza, come l'uomo al quale ho raccontato dell'ombra.» «Allora erano quelle le urla che ho sentito. Beh, c'è un destino per ognuno, ed è sciocco dimenarsi come un topo in trappola. Quando Tog mi vorrà, saprà venirmi a cercare.» «Chi è Tog?» La donna gli lanciò una lunga occhiata di apprezzamento che fece arrossire Natala e la costrinse a mordersi le piccole labbra rosse. Accomodati sul divano e te lo dirò. Ma prima dimmi come vi chiamate. Io sono Conan, un cimmero. E lei è Natala, figlia della Britunia. Siamo gli unici scampati di un esercito annientato lungo le frontiere del Kush. Ma non ho nessuna voglia di starmene seduto quando ci sono ombre tenebrose che si muovono furtivamente alle mie spalle. Con una risatina musicale, la ragazza si sedette, allungandosi sul divano con uno studiato abbandono. Mettiti pure comodo. Se Tog vuole te, ti prenderà dovunque tu sia. L'uomo di cui parlavi, quello che è fuggito urlando, non l'hai sentito mandare un ultimo grido acutissimo e poi più niente? Nella foga di scappare deve essere finito in pieno addosso a colui che cercava di evitare. Nessuno può sfuggire al destino. Conan grugnì diffidente, ma si sedette sull'orlo del divano con la sciabola di traverso sui ginocchi e gli occhi che esploravano sospettosi la stanza. Natala si rannicchiò contro di lui, stringendolo con gelosia, le gambe ripiegate sotto di sé. Guardava la donna straniera con sospetto e risentimento. Si sentiva piccola, sudicia e insignificante di fronte a quella bellezza affascinante e non poteva fraintendere l'espressione di quegli occhi neri che si soffermavano avidi su ogni particolare del corpo abbronzato del cimmero. «Che posto è questo? E chi è questa gente?» «La città si chiama Xutal. È molto antica. È stata costruita attorno a un'oasi scoperta dai fondatori nei loro viaggi. Venivano da Oriente, tanto tempo fa che nessuno dei loro discendenti ricorda la data.» «Non devono essere rimasti molti. I palazzi sembrano vuoti.» «No, sono più di quanti tu non pensi. La città è in realtà un unico grande palazzo, perché ogni edificio costruito entro le mura è collegato agli altri. Potresti camminare per queste stanze ore intere senza trovare nessuno, oppure incontrare centinaia di persone.» «Come si spiega?» chiese Conan a disagio, perché la faccenda puzzava troppo di stregoneria. «La gente passa la maggior parte del tempo addormentata. La vita che vivono in sogno è importante e reale per loro quanto quella da svegli. Hai sentito parlare del loto nero? Cresce in certi sotterranei della città. Gli abitanti lo hanno coltivato per anni fino a ottenere che il succo estratto dai suoi frutti procurasse, anziché la morte, sogni affascinanti e fantastici. Ed essi passano la maggior parte del tempo immersi in questi sogni. Le loro vite sono insignificanti, irregolari, senza progetti. Sognano, si destano, bevono, mangiano, fanno l'amore e sognano di nuovo. Raramente portano a termine ciò che iniziano. Più spesso lo lasciano a mezzo per sprofondare di nuovo nel torpore del loto nero. I cibi che avete trovato... Senz'altro qualcuno si è svegliato, ha sentito gli stimoli dell'appetito, ha preparato la cena e se n'è dimenticato, andandosene a sognare di nuovo da qualche parte. Da dove prendono i cibi? Non ho visto campi o vigneti fuori della città. Hanno frutteti e stalle all'interno? Si fabbricano il cibo ricavandolo dagli elementi fondamentali. Sono scienziati meravigliosi quando non sono sotto la droga del fiore dei sogni. I loro antenati erano menti eccelse che costruirono questa meravigliosa città nel deserto. E sebbene la razza sia diventata schiava delle sue strane passioni, un po' della loro sapienza rimane. Non ti sei ancora chiesto da dove vengano le luci? Sono gioielli, fusi con il radium. Basta strofinarli con un dito per farli risplendere e strofinarli di nuovo in senso contrario per farli spegnere. È solo un esempio della loro scienza. Tuttavia, hanno dimenticato molte cose. Danno poca importanza alla vita da svegli, perché preferiscono passare la maggior parte del tempo in un sonno simile alla morte. Quel morto davanti alla porta era senz'altro addormentato. Chi dorme il sonno del loto è come morto. Apparentemente è inanimato. È impossibile notare il minimo segno di vita. Lo spirito abbandona il corpo e si aggira a piacere per altri mondi esotici. L'uomo alla porta è un ottimo esempio dell'irresponsabilità che permea la loro vita. Stava sorvegliando la porta, secondo la consuetudine, sebbene nessun nemico sia mai arrivato attraverso il deserto. In altre parti della città potresti trovare altre sentinelle, in genere addormentate profondamente come quell'uomo. Conan rimuginò quelle informazioni. Dove sono ora le persone? Sparpagliate per la città, sdraiate su letti, su divani di seta, in alcove ricoperte di cuscini, su giacigli coperti di pellicce e soprattutto avvolte nel velo luminoso dei sogni. Conan sentì un brivido corrergli lungo la schiena. Non era piacevole pensare a centinaia di persone abbandonate fredde e inerti per i palazzi adorni di tappeti, con gli occhi vitrei spalancati, senza vedere. Si ricordò di un'altra cosa. «E quell'essere che è arrivato furtivamente e si è portato via l'uomo sul divano?» Anche le membra d'avorio della donna furono scosse da un brivido. «Quello era Tog, l'antico, il dio di Xutal, che abita nella cupola sepolta al centro della città. Nessuno sa se sia arrivato qui assieme ai primi abitanti o se fosse già qui quando la città fu costruita. Ma il popolo di Xutal lo adora. Di solito dorme sotto i palazzi, ma di tanto in tanto, a intervalli irregolari, diventa affamato. E allora si muove per i corridoi segreti e stanze semibuie in cerca di preda. E allora nessuno può considerarsi al sicuro». Natala gemette di orrore e si afferrò il collo del cimmero, come per resistere a qualcuno che tentasse di strapparla al suo protettore. «Per Crom! Vuoi dirmi che la gente se ne sta tranquillamente addormentata con un demone come quello che striscia fra di loro?» «Capita solo di tanto in tanto che sia affamato. Un dio deve avere dei sacrifici. Quando ero bambina in Stygia, vivevamo sotto l'incubo di un sacerdote. Nessuno sapeva mai quando sarebbe stato trascinato sull'altare dei sacrifici. Che differenza c'è se sono i sacerdoti a offrire una vittima al dio o se è il dio stesso che viene a prendersela?» «La mia gente non ha queste usanze e nemmeno quella di Natala. Gli Iboriani non sacrificano esseri umani a Mitra, il loro dio, e in quanto al mio popolo, per Crom, mi piacerebbe proprio vedere un sacerdote trascinare un cimmero sull'altare. Il sangue sarebbe sparso di sicuro, ma non come vorrebbe il sacerdote!» «Tu sei un barbaro. Tog è antichissimo e terribile.» «E qui devono essere tutti pazzi o eroi! Starsene coricati a sognare i loro stupidi sogni, sapendo che possono risvegliarsi nella sua pancia!» «Non conoscono altri modi. Per innumerevoli generazioni, Tog si è preso la sua vittima. È stato lui uno dei fattori che hanno ridotto il numero delle persone da migliaia a centinaia. Ancora qualche generazione saranno estinti e Tog dovrà avventurarsi nel mondo per trovare nuove prede o ritirarsi nel mondo sotterraneo dal quale è venuto fuori tanti secoli fa. Sono ben coscienti del loro destino, ma sono anche fatalisti, incapaci di opporre resistenza o fuggire. Nessuno dell'attuale generazione si è mai allontanato da queste mura. C'è un'oasi a un giorno di marcia verso sud. L'ho vista sulle vecchie mappe disegnate sulla pergamena dai loro antenati, ma in 3 generazioni nessun uomo di Xutal l'ha visitata. E ancor meno si è tentato di esplorare le fertili pianure che la mappa mostra a un altro giorno di marcia dall'oasi. È una razza in rapido declino, che annega nei sogni del loto e durante la veglia si rinvigorisce col vino dorato che rimargina le ferite, prolunga la vita e stimola chi è sazio fino alla nausea. Eppure rimangono aggrappati alla vita e temono la divinità che adorano. Hai visto tu stesso quell'uomo diventare pazzo quando ha saputo che Tog si aggirava per i palazzi? Ho visto l'intera città urlare e strapparsi i capelli e correre atterrita fuori dalle porte e acquattarsi fuori dalle mura e tirare a sorte chi doveva essere legato e lanciato dentro per calmare la brama affamata di Tog. Se non fossero tutti profondamente addormentati, la notizia della sua venuta li avrebbe di nuovo fatti fuggire urlando fuori dalle porte esterne. Conan, fuggiamo via! Quando sarà ora? E tu, che sei stigiana, che ci fai qui? Sono arrivata qui quando ero ancora una ragazzina. Sono la figlia di un re, non una donna comune. Lo puoi vedere dal colore della pelle, che è bianca come quella della tua piccola biondina. Sono stata rapita da un principe ribelle che, con un esercito di arcieri cusciti, si spinse nel deserto meridionale in cerca di un territorio del quale fare il suo regno. Morirono tutti quanti fra le dune, ma uno dei suoi guerrieri, prima di morire, mi mise su un cammello e mi accompagnò finché cadde per non rialzarsi più. Il cammello continuò ad andare avanti e io alla fine fui preda del delirio per la sete e la fame e mi risvegliai in questa città. Mi hanno detto di avermi visto dalle mura una mattina, priva di sensi, vicino a un cammello morto. Sono usciti dalla città e mi hanno portata dentro e mi hanno rimesso in sesto con loro meraviglioso vino dorato. E solo la vista di una donna avrebbe potuto farli avventurare così lontano dalle mura. Naturalmente erano molto interessati, specialmente gli uomini. Visto che non sapevo parlare la loro lingua, hanno imparato la mia, molto più rapidamente di quanto io non sia riuscita a imparare la loro, perché sono di intelligenza prontissima. Ma più della mia lingua, ero io stessa a interessarli. Sono stata e sono ancora l'unica cosa per cui un uomo riesce a rinunciare per un po' ai sogni del loto. Rise maliziosamente, facendo lampeggiare occhiate audaci e cariche di intenzioni. Naturalmente le donne sono gelose di me. Sono abbastanza graziose con la loro pelle gialla, ma hanno la stessa aria sognante e incerta degli uomini. E io piaccio non solo per la bellezza, ma anche perché sono reale. Non sono un sogno. Anche se ho provato i sogni del loto, sono una donna normale, con emozioni e desideri terreni. Non posso essere paragonata a queste donne gialle dagli occhi a mandorla. Perciò ti converrebbe tagliare la gola alla ragazza prima che gli uomini di Xutal si sveglino e le mettano le mani addosso. Le farebbero provare cose che non ha mai neanche sognato. È troppo delicata per sopportare le cose con le quali io ho fatto fortuna. Io sono una figlia di Luxor. Non avevo ancora visto 15 estati quando mi hanno condotta ai templi di Derketo, la dea delle tenebre, e iniziata i suoi misteri. E tuttavia i primi anni che passai a Xutal non furono affatto anni di piacere. Gli abitanti di Xutal hanno dimenticato più cose di quante le sacerdotesse di Derketo abbiano mai immaginato. Essi vivono solo per i piaceri sensuali. Che sognino o siano svegli, la loro vita è piena di estasi erotiche, al di là della comprensione delle persone comuni. Maledetti degenerati! Dipende dai punti di vista. Bene, qui stiamo solo sprecando tempo. Questo non è un posto fatto per i comuni mortali. Prima che i tuoi idioti si sveglino o che arrivi Tog a divorarci, ce ne saremo già andati. Il deserto sarà certamente più piacevole. Natala, che si era sentita gelare il sangue alle parole di Talis, assentì con foga. Non sapeva parlare correttamente l'ostigiano, ma lo capiva abbastanza. Conan si alzò, tirandosela a fianco. «Se ci mostrerai la via d'uscita più vicina, ce ne andremo subito!» brontolò. Ma i suoi occhi indugiarono sul corpo flessuoso e sui seni d'avorio dell'astigiana. Talis non si lasciò sfuggire quell'occhiata e sorrise enigmatica, alzandosi con l'agilità di un gattone pigro. «Seguimi!» disse. E fece strada, ben consapevole che gli occhi di Conan erano fissi sul suo corpo flessuoso e sul suo passo perfettamente bilanciato. Prese una direzione diversa da quella dalla quale erano arrivati i due, e prima che Conan potesse insospettirsi, si fermò in un'ampia stanza intarsiata d'avorio, indicando una fontanella che gorgogliava in mezzo al pavimento. «Non vuoi lavarti il viso, bambina? È sporco di polvere e anche i capelli ne sono pieni.» Natala arrossì, risentita per la traccia di malizia che affiorava nel tono lievemente sfottente dell'astigiana, ma seguì il suggerimento, chiedendosi piena di tristezza quali danni il sole e il vento del deserto le avessero arrecato al colorito della pelle. Un connotato per il quale le donne della sua razza erano giustamente famose. Si inginocchiò ai bordi della fontana, si tirò indietro i capelli, si fece scivolare la tunica fino alla vita e cominciò a lavarsi non solo il viso, ma anche le braccia e le spalle. Per Crom, una donna si fermerebbe a controllare la sua bellezza anche se avesse le calcagna e il diavolo in persona. Sbrigati, ragazza! Sarai di nuovo piena di polvere prima di essere fuori di vista da questa città. E Talis, sarebbe gentile da parte tua se ci potessi procurare un po' di cibo e qualcosa da bere. Per tutta risposta, Talis gli andò vicino e gli fece scivolare un braccio candido attorno alle spalle bronzee. Col fianco liscio premette contro l'anca del cimmero e Conan ebbe le mani piene del profumo emanato dai capelli della stigiana. Perché vuoi sfidare il deserto? Rimani qui. Ti insegnerò tutti i segreti di Xutal. Ti proteggerò, ti amerò. Tu sei un vero uomo. Sono stufa di questi idioti che sospirano, sognano, vegliano, sognano di nuovo. Sono affamata di passioni forti, vere, di uomini mortali. Lo scintillio dei tuoi occhi mobili mi fa battere il cuore nel petto e il tocco delle tue braccia d'acciaio mi fa impazzire. Rimani qui. Ti farò diventare il re di Xutal. Ti mostrerò tutti gli antichi misteri, tutti gli esotici modi di godere. Io ti... Aveva stretto tutte e due le braccia attorno al collo di Conan e stava in punta di piedi, col corpo vibrante stretto a quello del cimmero. Da sopra le spalle della donna, Conan vide Natala che spingeva indietro i capelli bagnati e si fermava, spalancando gli occhi, con le labbra che si schiudevano a formare una O. Conan brontolò imbarazzato e si liberò della stretta di Talis, spingendola da parte con un braccio imperioso. La stigiana lanciò una rapida occhiata alla ragazza britoniana e sorrise con aria enigmatica, muovendo la testa in un cenno d'assenso a qualche misterioso pensiero. Natala si alzò e si sistemò la veste, con gli occhi lucidi e le labbra imbronciate. Conan bestemmiò sottovoce. Non era per natura più monogamo della media dei soldati di Ventura, ma in lui c'era un innato senso di onestà che costituiva la miglior difesa per Natala. Talis non ripeté la richiesta. Con la mano sottile fece loro cenno di seguirla. Si voltò e percorse la stanza. Giunta vicino al muro coperto di drappi, si fermò di colpo. Conan, osservandola, si chiese se per caso avesse sentito i rumori provocati da un mostro innominabile che si aggirasse furtivo per le stanze buie, e a quel pensiero si sentì rabbrividire. «Cosa hai sentito?» «Guarda quella porta!» Conan si voltò con la spada pronta. Il suo sguardo incontrò solo l'arco vuoto dell'ingresso. Ma alle sue spalle ci fu un rapido e debole rumore attutito, un boccheggiare semisoffocato. I drappi stavano tornando al loro posto, come se fossero stati sollevati dalla parete. Mentre guardava stupito, da dietro quei drappi provenne l'urlo soffocato della ragazza britoniana. Due. Quando Conan si era voltato alla richiesta di Talis per osservare la porta all'altro capo della stanza, Natala si trovava dietro di lui, a fianco della stigiana. Nell'attimo in cui la schiena di Conan era girata, Talis, con una rapidità da pantera quasi incredibile, premette una mano sulla bocca di Natala, soffocando il grido che stava per uscirne. Nello stesso tempo, con l'altro braccio, circondò la vita sottile della ragazza bionda e la spinse indietro contro la parete, che sembrò cedere quando la spalla della stigiana vi premette contro. Una sezione del muro ruotò in dentro e Talis scivolò attraverso uno squarcio dei drappi, trascinando con sé la prigioniera, proprio mentre il cimmero si voltava. Dentro, quando la porta segreta ruotò nuovamente al suo posto, c'era una completa oscurità. Talis si fermò per un attimo armeggiando attorno alla porta, probabilmente per rimettere a posto un catenaccio, e per farlo fu costretta a togliere la mano dalla bocca di Natala, che cominciò a urlare a squarciagola. Nel buio, la risata di Talis sembrò miele avvelenato. strilla finché vuoi, piccola stupida. Servirà solo ad abbreviarti la vita. A quelle parole, Natala smise di colpo e si rannicchiò tremando contro la parete. Perché hai fatto questo? Cosa farai ora? Ti condurrò lungo questo corridoio per un pezzetto e ti lascerò lì, a disposizione di uno che prima o poi verrà a prenderti. La voce di Natala si mutò in un singhiozzo di terrore. Oh, perché vuoi farmi del male? Io non ti ho mai fatto nulla. Voglio il tuo guerriero. Tu mi sbarri la strada. Lui mi desidera. Posso leggerglielo negli occhi. Se non fosse per te, accetterebbe di restare qui ed essere il mio re. Quando tu sarai stata tolta di mezzo, mi seguirà. Ti taglierà la gola, invece. Rispose Natala con convinzione, perché conosceva Conan meglio della stigiana. Vedremo. Rispose Talis freddamente, fiduciosa nel suo potere sugli uomini. Ad ogni modo, tu non saprai se mi prenderà a bacio o a pugnalate, perché sarai la sposa di colui che abita nelle tenebre. Vieni. Quasi pazza di terrore, Natala si dibatté selvaggiamente, senza risultato. Con una forza che sembrava impossibile in una donna, Talis la sollevò e la portò di peso per il corridoio buio, come se fosse stata una bambina. Natala non urlò di nuovo, ricordando le sinistre parole della stigiana. Gli unici suoni erano il suo respiro affannoso e la risatina sarcastica e sensuale di Talis. Poi, nel buio, le mani annaspanti della ragazza si chiusero su qualcosa. L'elsa ingioiellata di un pugnale che sporgeva dalla cintura tempestata di gemme della stigiana. Natala estrasse il pugnale e colpì alla cieca con tutte le sue forze. Un urlo uscì dalle labbra di Talis, pieno di furia e di sofferenza feline. Barcollò e Natala scivolò dalla stretta che si allentava, andando a sbattere con le morbide membra sul pavimento di pietra levigata. Si rialzò, si allontanò in fretta verso la parete più vicina e rimase lì, appiattita contro le pietre. Non poteva vedere Talis, ma poteva sentirla. La stigiana non era certamente morta. Stava lanciando un fiume di imprecazioni e la sua furia era così concentrata e terribile che Natala sentì che le ossa diventavano di cera e il suo sangue di ghiaccio. Dove ti sei cacciata, piccolo demonio? Lascia che ti metta ancora le mani addosso e ti... Natala provò un malessere fisico mentre la stigiana descriveva le punizioni corporali che intendeva infliggere alla rivale. La scelta delle parole avrebbe fatto arrossire di vergogna la più incallita cortigiana di Aquilonia. Natala la sentì brancicare nel buio e poi si accese una luce. Evidentemente Talis, per quanta paura avesse di quel corridoio tenebroso, si era lasciata sommergere dalla collera. La luce proveniva da una delle gemme radium che ornavano le pareti di Xutal. Talis aveva strofinato la gemma e adesso era inondata da quella luminosità rossastra che era una luce leggermente diversa da quelle emesse dalle altre gemme. La stigiana teneva una mano premuta contro il fianco e dalle dita colava un filo di sangue. Ma non sembrava che ne risentisse molto o che fosse seriamente ferita. Anzi, gli occhi le brillavano diabolicamente. Quel po' di coraggio che era rimasto a Natala svanì completamente alla vista della stigiana inondata da quella luminosità spettrale, con le fattezze contorte da una passione quantomeno infernale. Talis avanzò con passo da pantera, togliendosi la mano dal fianco ferito e scuotendosi con impazienza dalle dita le gocce di sangue. Natala vide che non aveva ferito la rivale seriamente. La lama era scivolata sui gioielli della cintura e aveva inflitto appena una scalfitura, sufficiente a provocare la furia incontrollata della donna. Disse Talis, digrignando i denti e avanzando verso la ragazza accovacciata contro la parete. Natala sapeva che doveva lottare finché ne aveva la possibilità, ma semplicemente non riusciva a trovare il coraggio necessario. Più che la lotta, l'oscurità, la violenza e l'orrore della sua avventura l'avevano lasciata inerte, fisicamente e mentalmente. Talis le strappò il pugnale dalle dita rilassate e lo buttò via con disprezzo. «Brutta sgualdrina!» digrignò fra i denti schiaffeggiandola dispettosamente, prima con una mano e poi con un'altra. «Prima di trascinarti in fondo al corridoio e di buttarti tra le fauci di Tog, voglio avere anch'io un po' del tuo sangue. Hai avuto il coraggio di colpirmi col pugnale? Bene, la tua audacia ti costerà cara!» L'afferrò per i capelli e la trascinò per qualche passo lungo il corridoio, fino al limite del cerchio di luce. Nella parete, a un'altezza superiore a quella di un uomo, luccicava un anello di metallo dal quale pendeva una corda di seta. Come in un incubo, Natala si sentì strappare di dosso la tunica e subito dopo Talis le afferrò i polsi e li legò alla corda. La ragazza si trovò appesa all'anello, nuda come la madre l'aveva fatta, con i piedi che a malapena sfioravano il pavimento. Voltando il capo, vide che Talis staccava una frusta con il manico ingioiellato da un gancio appeso alla parete vicino all'anello. La sferza era formata da 7 corde di seta ritorta, più dure eppure più flessibili di strisce di cuoio. Con un sibilo di soddisfazione vendicativa, Talis tirò indietro il braccio e Natala urlò quando le corde le si attorcigliarono ai fianchi. La ragazza si dimenava, si contorceva, cercava di strappare i legacci che le imprigionavano i polsi. Aveva dimenticato la minaccia in agguato che poteva essere attirata dalle grida. Ed evidentemente anche la ragazza stigiana se n'era dimenticata. Ogni sferzata provocava urla di sofferenza. Le frustate che Natala aveva patito nel mercato degli schiavi scemita diventavano insignificanti di fronte a quelle che subiva ora. Non aveva mai sospettato la capacità di arrecare dolore delle corde di seta strettamente intrecciate. La loro carezza era più raffinatamente dolorosa di qualsiasi sferza di giunco o correggia di cuoio. Le corde di seta sibilavano velenosamente sferzando l'aria. E poi, quando Natala voltò il viso macchiato di lacrime contro la spalla per implorare pietà, qualcosa gelò i suoi gemiti. Nei suoi occhi la sofferenza lasciò il posto a un terrore paralizzante. Colpita dall'espressione della ragazza, Talis fermò la mano a mezz'aria e si voltò rapida come un felino. Ma era troppo tardi. Un terribile grido le uscì dalle labbra mentre indietreggiava con le braccia alzate. Natala la vide per un attimo. Una bianca figura di terrore stagliata contro una grande massa nera e informe che torreggiava su di lei. Poi la figura bianca fu spazzata via. L'ombra si allontanò portandola con sé e nel cerchio di luce fioca Natala restò sola, semisvenuta per il terrore. Dalle ombre tenebrose provennero dei suoni incomprensibili ma così terrificanti da gelare il sangue. Sentì la voce di Talis supplicare freneticamente senza che nessun'altra voce le rispondesse. Non ci furono più rumori, eccetto la voce ansante della stigiana, che si alzò improvvisamente fino a un urlo di agonia, prorompendo poi in uno scoppio di risa isteriche miste a singhiozzi, che si indebolirono fino a un ansito convulso, e poi cessarono. Sul corridoio segreto incombeva ora un silenzio ancora più spaventoso. Nauseata dal terrore, Natala si contorse e osò lanciare un'occhiata piena di paura nella direzione in cui la forma tenebrosa aveva trascinato Talis. Non vide nulla, ma avvertì un pericolo invisibile, spaventoso al di là della sua comprensione. Lottò contro un'ondata di panico che si stava alzando in lei. Si dimenticò dei polsi scorticati, del corpo dolorante, sotto l'incalzare di quella minaccia rivolta, come intuiva oscuramente, non solo al suo corpo, ma anche alla sua stessa anima. Aguzzò gli occhi nell'oscurità al di là del debole cerchio di luce, tutta tesa per la paura di quel che avrebbe potuto vedere. Un gemito convulso le sfuggì dalle labbra. Le tenebre adesso stavano prendendo forma. Qualcosa di enorme e mostruoso stava crescendo dal nulla. Vide una testa gigantesca e informe emergere nel cerchio di luce. Almeno pensò che fosse una testa, anche se non apparteneva a nessuna creatura normale. Vide un grande viso da rospo, i cui lineamenti erano confusi e instabili, come quello di uno spettro riflesso in uno specchio d'incubo. Due grandi chiazze di luce, che avrebbero potuto essere occhi, ammiccarono verso di lei. Ella tremò di fronte alla brama cosmica che vi vide riflessa. Non poteva dire niente del corpo di quell'essere. I contorni sembravano ondeggiare e alternarsi sottilmente anche mentre lo osservava. Eppure sembrava fatto di una sostanza abbastanza consistente. In esso non c'era nulla di nebbioso o di spettrale. Quando avanzò verso di lei, non riuscì a determinare se camminasse, si contorcesse, volasse o strisciasse. Il sistema di locomozione era completamente al di là della sua comprensione. Quando l'essere fu fuori dall'oscurità, era ancora incerta sulla sua natura. La luce della gemma al radium non lo illuminava come avrebbe illuminato una creatura normale. Per quanto impossibile, pareva che l'essere non fosse colpito dai raggi di luce. I particolari rimanevano oscuri e indistinti. Anche quando le si fermò così vicino da toccarle quasi il corpo pieno di brividi. Solo la faccia da rospo, priva di espressione, poteva essere distinta con una certa chiarezza. L'essere appariva come una macchia, un tenebroso sgorbio d'ombra che la luce normale non riusciva né a dissipare né a illuminare. Pensò di essere impazzita, perché non riusciva a stabilire se l'essere la osservasse dal basso in alto o invece la sovrastasse. Non riusciva a determinare su quel muso sinistro e repellente se le ammiccasse dall'ombra ai suoi piedi o la stesse guardando da un'immensa altezza. Ma anche se gli occhi testimoniavano le caratteristiche mutevoli dell'essere, questi tuttavia era composto di materia solida e i sensi glielo confermarono. Un'appendice tenebrosa a forma di tentacolo le scivolò attorno al corpo e lei urlò avvertendone il tocco sulla sua carne nuda. Non era né freddo né caldo, né ruvido né liscio. Non somigliava a nulla che avesse già sperimentato. E a quella carezza si sentì invadere da una paura e di un senso di vergogna come mai le era successo prima. Tutta l'oscenità e l'infamia vergognosa generate dal fango degli abissi insondabili della vita sembrarono trascinarla in oceani di oscenità cosmica. E in quell'attimo seppe che quell'essere, qualsiasi forma di vita rappresentasse, possedeva una sua intelligenza. Natala cominciò a urlare senza controllo, mentre il mostro la tirava come per strapparla dall'anello solo con la forza bruta. E poi qualcosa si infranse al di sopra della loro testa e una forma precipitò dall'alto, cadendo sul pavimento di pietra. Conan si voltò appena in tempo per vedere i drappi ricadere al loro posto e udire il grido soffocato di Natala. Con un ruggito selvaggio si lanciò con tutto il suo peso contro la parete, in un urto che avrebbe frantumato le ossa di un uomo meno robusto. Ma rimbalzò indietro, strappò i drappi e mise in luce quello che a prima vista sembrava un muro vuoto. Fuori di sé per la rabbia, alzò la sciabola come se volesse spaccare il marmo, quando un rumore improvviso lo mise in allarme. Si voltò con gli occhi che mandavano scintille. Aveva di fronte un gruppo di uomini dalla pelle gialla, vestiti di tuniche porpora, che impugnavano corte spade. Mentre si voltava, gli uomini si fecero sotto con grida ostili. Il cimmero non fece nessun tentativo di calmarli. Pazzo di rabbia per la scomparsa della ragazza, tornò ad essere il barbaro di sempre. Un ruggito di soddisfazione assetata di sangue gli gorgogliò in gola mentre si lanciava all'attacco. Il primo assalitore, la cui corta spada non aveva la portata della sciabola sibilante, cadde col cervello che gli fuoriusciva dal cranio spaccato in due. Volteggiando come un gatto, Conan parò col taglio della sciabola un braccio che calava e la mano che impugnava la corta spada volò per aria, sparpagliando una pioggia di gocce scarlatte. Il cimmero si muoveva senza esitazioni. Con un guizzo felino e una torsione del corpo evitò il cieco assalto di due uomini. La spada di uno, sbagliando bersaglio, si infilò nel petto dell'altro. Un urlo di costernazione fece seguito a quell'errore e Conan si concesse un breve scoppio di risa simile a un ringhio, mentre evitava con un balzo una lama sibilante e penetrava sanguinosamente nella guardia di un altro uomo ancora. Un lungo spruzzo scarlatto seguì la lama e l'uomo si accartocciò urlando col ventre squarciato. I guerrieri di Xutal ululavano come lupi impazziti. Non più abituati alle battaglie, erano ridicolmente lenti e goffi rispetto ai movimenti da tigre del barbaro, le cui mosse erano lampi di velocità possibili solo a muscoli d'acciaio perfettamente collegati a un cervello di combattente. Venivano avanti impacciati, inciampando fra loro, ostacolati dal loro stesso numero. Colpivano troppo in fretta o troppo presto e incontravano solo l'aria. Conan non era mai fermo e mai nello stesso posto. Balzava di lato, volteggiava, si piegava, offrendo alle spade un bersaglio in costante movimento, mentre la lama ricurva che impugnava seminava morte in mezzo agli assalitori. Ma quali che fossero i loro difetti, gli uomini di Xutal non mancavano certo di coraggio. Sciamavano attorno al cimmero, gridando e menando colpi, e altri correvano dalle porte ad arco, svegliati dal loro torpore e dal clamore insolito. Conan, che perdeva sangue da una ferita alla tempia, con un fendente devastatore della sciabola insanguinata, fece per un attimo un po' di spazio attorno a sé e lanciò in giro una rapida occhiata per trovare una via di uscita. Proprio in quell'attimo vide che i drappi di una delle pareti venivano spinti da parte, schiudendo una stretta scalinata, in cima alla quale c'era un uomo riccamente vestito, che ammiccava con uno sguardo incerto, come se si fosse svegliato proprio allora e non si fosse ancora scosso dal cervello i fumi del sonno. Per Conan, vedere quell'uomo e agire, di conseguenza, fu tutt'uno. Un balzo da tigre lo portò intatto oltre il cerchio di spade che lo pressava da vicino. Con un altro balzo si lanciò verso i gradini, con la turba di uomini che gli latrava dietro. Tre uomini lo affrontarono ai piedi della scala e il cimmero li colpì con un assordante stridio d'acciaio. Ci fu un attimo frenetico in cui le lame scintillarono come lampi estivi. Poi il gruppetto si dissolse e Conan balzò per la scala. Quelli che sopraggiungevano inciamparono nei tre corpi che si agitavano sui gradini più bassi. Uno giaceva prono in un miscuglio di sangue disgustoso e di cervello, un altro si sosteneva sulle mani, col sangue che usciva orribilmente dalla gola squarciata, e il terzo ululava come un cane moribondo, reggendosi il moncherino scarlatto che una volta era stato il suo braccio. Mentre Conan si avventava su per i gradini, l'uomo in cima alla scala si scosse dallo stupore ed estrasse una spada che scintillò freddamente nella luce al radium. Mentre il barbaro avanzava verso di lui, l'uomo fece un affondo. Ma Conan, vedendo la punta della spada diretta alla sua gola, si abbassò più che poteva. La lama gli scorticò la schiena e il cimmero si raddrizzò, guidando la sciabola dal basso in alto, come se fosse un coltellaccio da macellaio, con tutta la forza delle spalle possenti. Il colpo fu così terribile che la spada, pur conficcandosi fino all'elsa nel ventre dell'uomo, non riuscì ad assorbire completamente la violenza dell'urto. Conan carambolò contro il corpo del disgraziato sbattendolo di lato. L'urto mandò il cimmero a sbattere contro il muro, mentre l'altro, con la sciabola che gli veniva strappata via attraverso la carne, cadeva capofitto giù per le scale, squarciato fino alla spina dorsale dall'inguine allo sterno. Con un'orrenda confusione di viscere che fuoriuscivano a fiotti, il corpo andò a sbattere contro gli uomini che salivano di corsa i gradini, trascinandoli con sé nella caduta. Mezzo intontito, Conan si appoggiò un attimo alla parete, guardando in basso. Poi scosse la sciabola con aria di sfida e salì ancora la scala. Entrando in un'altra stanza, si fermò quanto bastava per accertarsi che fosse vuota. Dietro di lui gli inseguitori urlavano con rabbia e orrore intensificati, tanto che Conan fu sicuro di aver ucciso un uomo molto importante, forse il re stesso di quella fantastica città. Corse a casaccio, senza un piano ben preciso. Desiderava disperatamente trovare Natala per darle quell'aiuto di cui sicuramente aveva bisogno. Ma braccato com'era da tutti i guerrieri di Xutal, poteva solo continuare a correre, sperando nella fortuna di eludere i nemici e trovare la ragazza. Percorrendo le stanze del piano superiore, buie e fiocamente illuminate, ben presto perse l'orientamento. e non ci fu da stupirsi se a un certo punto gli capitò di entrare per sbaglio in una delle stanze dalla quale, proprio in quel momento, i suoi inseguitori stavano uscendo. Gli uomini gridarono assetati di vendetta e gli si precipitarono contro. Con un ringhio disgustato si girò e si allontanò di corsa da dove era venuto. Almeno pensava che fosse la strada che aveva appena fatto. Ma poi, attraversando di corsa una stanza dagli ornamenti caratteristici, si accorse dell'errore. Tutte le stanze che aveva passato da quando era salito per quella scalinata erano vuote. Ma questa aveva un occupante che si alzò con un grido mentre lui entrava. Conan vide una donna dalla pelle gialla, carica di gioielli, ma per il resto nuda, che lo guardava con occhi spalancati. Fu tutto quello che riuscì a vedere mentre la donna alzava la mano e tirava una corda di seta che pendeva lungo la parete. Il pavimento gli venne a mancare sotto i piedi e nemmeno la sua coordinazione riuscì ad evitargli di piombare nelle tenebrose profondità che si spalancarono sotto di lui. La caduta fu breve, anche se sarebbe stata sufficiente a rompere le gambe di un uomo che non fosse fatto di muscoli e di ossa d'acciaio. Conan cadde sui piedi e su una mano, conservando distinto la presa sull'elsa della sciabola. Un grido familiare gli risuonò nelle orecchie mentre si rimetteva in piedi come una lince che riacquisti l'equilibrio dopo il balzo e con le zanne snudate. E così Conan, guardando da sotto la chioma scarmigliata, vide la figura bianca e nuda di Natara che si agitava nella stretta oscena di una nera forma d'incubo che poteva essere stata generata soltanto negli abissi sperduti dell'inferno. Persino il cimmero sarebbe impietrito di paura se avesse visto solo quella figura spaventosa. Ma assieme ad essa c'era la ragazza e quello spettacolo gli provocò un'ondata sanguinosa di furia omicida nel cervello. Preso in un vortice di nebbia scarlatta, Conan colpì il mostro. L'essere abbandonò la ragazza, voltandosi verso l'assalitore, e la sciabola impazzita del cimmero, sibilando nell'aria, penetrò agevolmente attraverso il corpo nero e viscoso, andando a sbattere contro il pavimento di pietra in una pioggia di scintille azzurrognole. La potenza del colpo fece piegare il cimmero sulle ginocchia. La lama non aveva incontrato la resistenza che si era aspettato. Mentre balzava in piedi, l'essere gli fu addosso. Torreggiò su di lui come una nuvola nera che gli si stringesse contro. Sembrava fluttuargli addosso in ondate liquide per avvilupparlo e poi inghiottirlo. La sciabola impazzita continuò ad aprire squarci dentro la massa di quel corpo, mentre il pugnale affilato strappava e lacerava. Il cimbero fu sommerso da un liquido viscido che doveva essere il sangue bavoso della creatura. E tuttavia essa non ne sembrava indebolita. Conan non avrebbe potuto dire se stava tagliando via le membra del mostro o se ne colpiva solo di striscio il tronco che si assottigliava sotto i colpi della lama tagliente. Era squassato qua e là dalla violenza di quella lotta spaventosa e aveva l'incredibile sensazione di lottare non contro una sola, ma contro un nugolo di creature mortalmente pericolose. L'essere sembrava mordere, azzannare, stritolare, randellare tutto in una volta. Conan sentiva unghie e artigli lacerargli la carne. Flaccide funi, resistenti come acciaio, gli circondavano le membra e il corpo. E peggio di tutto, qualcosa simile a una frusta di scorpioni lo sferzava in continuazione sulle spalle, dal petto alla schiena, strappandogli la pelle e riempendogli le vene di un veleno che era fuoco liquido. Erano frattanto rotolati oltre il cerchio di luce e ora il cimmero si batteva nella completa oscurità. Una volta affondò i denti come una belva nella sostanza flaccida dell'avversario, provando un senso di nausea mentre quella specie di carne si raggrinziva e si contorceva come gomma vivente fra le sue mascelle d'acciaio. In quell'uragano di lotta continuarono a rotolare sempre più lontano lungo il corridoio. La mente di Conan vacillava per le sofferenze che provava. Il fiato gli usciva dai denti a scatti sibilanti. Alto su di sé vedeva un grande muso di rospo, sinistramente sottolineato da un lucore spettrale che sembrava emanare dall'essere stesso. E con un grido di sofferenza, che era per metà imprecazione e per metà rantolo d'agonia, si lanciò verso quel muso, cercando di colpirlo con tutte le forze che ormai lo abbandonavano. La sciabola affondò fino all'Elsa, da qualche parte sotto quel grugno spettrale. E un tremito convulso scosse il corpo che quasi avviluppava il cimmero. Con uno scoppio vulcanico di contrazione ed espansione, l'essere precipitò all'indietro, rotolando ora con fretta frenetica lungo il corridoio. Conan gli fu subito dietro, scorticato, ferito, invincibile e attaccato come un mastino all'Elsa della sciabola che non riusciva ad estrarre da quel corpo, lacerando e squarciando col pugnale che stringeva nella sinistra, riducendo l'essere mostruoso a brandelli. Il mostro riluceva ora dappertutto di una spettrale fosforescenza che si rifletteva negli occhi del cimmero accecandolo, quando improvvisamente la pesante massa ondeggiante precipitò di sotto, mentre la sciabola si liberava e gli rimaneva saldamente stretta in mano. Quella mano e il braccio restarono sospesi nel vuoto. Molto più in basso, il corpo luminoso del mostro precipitava come una meteora. Conan si accorse con stupore di trovarsi sull'orlo di un grande pozzo rotondo fatto di pietra scivolosa. Giacque sul muretto, osservando quel lucore precipitare ondeggiando sempre più in basso, fino a svanire in una tenebrosa superficie rilucente che parve venirgli incontro. Per un attimo, un fuoco stregato brillò illanguidendosi in quegli abissi sinistri e poi scomparve. E Conan rimase a guardare nelle tenebre dell'abisso finale, dal quale ora non proveniva più alcun suono. Quattro. Tentando invano di strappare le corde di seta che le penetravano nei polsi, Natala cercò di scrutare nell'oscurità oltre il cerchio di luce. Le sembrava di avere la lingua saldata al palato. Aveva visto Conan svanire nel buio, impegnato in una lotta mortale con quel demone sconosciuto, e gli unici suoni che le erano giunte alle orecchie erano stati quelli degli ansiti del barbaro, dello scontro di corpi in lotta e il tonfo e il rumore lacerante di colpi selvaggi. Quando tutto questo cessò, Natala oscillò appesa alle corde in preda alla vertigine, semisvenuta. Il rumore di un passo la risvegliò da quell'apatia colma d'orrore. Vide Conan emergere dall'oscurità. A quella vista le tornò la voce, in un grido che echeggiò per il corridoio a volta. Il trattamento che aveva patito il cimmero era terribile da guardare. Gocciolava sangue ad ogni passo, aveva il volto spellato e scorticato come se fosse stato battuto con una mazza. Aveva le labbra tumefatte e il sangue gli usciva a fiotti da una ferita sulla testa. Aveva profonde ferite nei fianchi, nei polpacci e negli avambracci, e grandi scorticature su tutte le membra e sul corpo, dovute agli urti sul pavimento di pietra. Ma le spalle, la schiena e il petto avevano sofferto ancora di più. La pelle era strappata, lacerata, gli pendeva a brandelli, come se fosse stato frustato con sferze di fil di ferro. Conan, cosa ti è successo? Il cimmero non aveva fiato da sprecare in conversazione, ma mentre si avvicinava, le labbra tumefatte gli si contorsero in quella che poteva essere una sinistra smorfia di allegria. Il petto irsuto, luccicante di sudore di sangue, si sollevava e si abbassava pesantemente. Pian piano, con fatica, si alzò in punta di piedi e tagliò le corde, e poi ricadde indietro contro il muro e vi rimase appoggiato con le gambe spalancate che gli tremavano. Natala strisciò da dove era caduta e lo strinse in un abbraccio frenetico, singhiozzando isterica. Conan, ma tu sei ferito a morte! Cosa posso fare? Beh, non si può pretendere di lottare contro un demone uscito dall'inferno senza riportare nessun graffio. Dov'è quel mostro? L'hai ucciso? Non so. È caduto in un pozzo, era ridotto a brandelli sanguinolenti, ma io non so se il ferro riesca ad ucciderlo. Oh, la tua povera schiena. Mi ha frustato con un tentacolo. Tagliava come fil di ferro e bruciava come veleno. Ma è stata quella maledetta stretta che mi ha quasi fatto fuori. Era peggio di un pitone. Giurerei che metà delle viscere me le ha fatte andare fuori posto. Cosa facciamo ora? Il cimmero diede un'occhiata verso il soffitto. Il trabocchetto adesso era chiuso e da sopra non proveniva nessun suono. Non possiamo tornare indietro attraverso la porta segreta. Quella stanza è piena di morti e senza dubbio ci sono guerrieri di guardia. Devono aver pensato che la mia sorte era segnata quando sono precipitato nel trabocchetto, oppure non hanno avuto il coraggio di seguirmi nel corridoio. Togli dal muro quella gemma luminosa. Mentre mi trascinavo indietro per il corridoio, mi è sembrato che ci fossero delle aperture che davano su altri tunnel. Prenderemo il primo che capita. Potrà portare un altro pozzo oppure all'aria aperta. Dobbiamo solo provare. Non possiamo stare qui a marcire. Natala obbedì e Conan si avviò per i corridoi, reggendo nella sinistra il debole punto di luce e nella destra la sciabola insanguinata. Procedeva adagio, rigidamente, tenuto in piedi solo dalla sua vitalità animalesca. Aveva lo sguardo vacuo negli occhi iniettati di sangue e Natala notò che di tanto in tanto si passava la lingua sulle labbra tumefatte. La ragazza sapeva che il cimmero soffriva tremendamente, ma sopportava senza un lamento, con lo stoicismo delle creature selvagge. Ora la luce pallida si rifletté in un'oscura arcata e Conan voltò da quella parte. Natala rabbrividì pensando a quel che potevano incontrare, ma la luce rivelò solo un corridoio simile a quello che avevano appena abbandonato. Non aveva idea di quanto fossero andati lontani quando salirono una lunga scalinata e giunsero a una porta di pietra chiusa da una spranga d'oro. La ragazza esitò, guardando Conan. Il cimmero si reggeva malapena in piedi e la luce che reggeva nella mano malferma lanciava ombre fantastiche lungo le pareti. «Apri la porta, ragazza! Gli uomini di Xutal ci stanno aspettando!» E io non voglio deluderli. Per Crom, la città non ha mai visto una carneficina come quella che farò io. Natala capì che stava delirando. Da dietro la porta non proveniva alcun suono. Prese la gemma luminosa dalla mano del cimmero, spinse via la barra dorata e spalancò il pannello verso l'interno, rivelando la parte interna di un drappo in tessuto d'oro che scostò per osservare dentro la stanza con il cuore in gola. Vide una camera vuota, al centro della quale gorgogliava una fontanella d'argento. La mano di Conan ricadde pesantemente sulla spalla nuda. «Scostati, ragazza! Ora tocca alle spade divertirsi!» «Non c'è nessuno nella stanza, ma c'è acqua!» «Sì, la sento! Berremo un po' prima di morire!» Conan sembrava cieco. Natala gli prese la mano macchiata di sangue rappreso e lo guidò attraverso la porta. Avanzò in punta di piedi, aspettandosi a ogni istante che dalle porte ad arco irrompessero gli uomini dalla pelle gialla. «Bevi, ragazza, mentre io monto la guardia!» «No, non ho sete. Siediti vicino alla fontana e ti laverò le ferite.» «Dove sono le spade di Xutal?» Il cimmero si passava in continuazione il braccio davanti agli occhi, come per schiarirsi la vista annebbiata. «Non sento nessuno! Tutto è silenzioso!» Conan si lasciò scivolare per terra a tentoni e tuffò il volto nel getto cristallino, bevendo come se non riuscisse mai ad averne abbastanza. Quando rialzò il capo, negli occhi iniettati di sangue aveva uno sguardo cosciente, e allungò il corpo poderoso sul pavimento di marmo, come lei aveva suggerito, continuando però a tenere la sciabola in pugno, con gli occhi che controllavano in continuazione le arcate delle porte. La ragazza gli bagnò le carni lacerate e gli fasciò le ferite più profonde con strisce di seta strappate da una tenda. Rabbrividì guardando la schiena del cimmero. La carne era scolorita chiazzata, macchiata di nero e di viola e di un giallo nauseabondo, dove non era scorticata. Mentre si dava da fare, cercava disperatamente una via d'uscita alla loro situazione. Se fossero rimasti dove erano, prima o poi sarebbero stati scoperti. Non sapeva se gli uomini di Xutal stessero ancora cercandoli o se fossero ritornati ai loro sogni. Quando ebbe terminato, si fermò impietrita. Attraverso le cortine, che nascondevano in parte un'alcova, aveva intravisto un lembo di pelle gialla. Senza dire nulla, Conan si alzò e attraversò con cautela la stanza, stringendo il pugnale del cimmero. Il cuore le batteva fino a soffocarla, mentre con precauzione scostava le cortine. Sul divano di pietra giaceva una giovane donna, nuda e apparentemente senza vita. Vicino al braccio aveva un'anfora quasi piena di quel particolare liquido dal colore dorato. Natala pensò che fosse quell'elisir descritto da Talis, che dava vigore e vitalità ai degenerati di Xutal. Si chinò sopra la forma addormentata e afferrò il recipiente, tenendo il pugnale puntato contro il petto della donna. La dormiente non si svegliò. Impadronitasi dell'anfora, Natala esitò, ritenendo che sarebbe stato più sicuro fare in modo che la dormiente non potesse più svegliarsi e lanciare allora l'allarme. Ma non riusciva a costringersi a conficcare il pugnale del cimmero in quel corpo inerte e infine lasciò ricadere la tendina e ritornò da Conan, che giaceva dove l'aveva lasciato e sembrava solo in parte cosciente. Si chinò e gli accostò il recipiente alle labbra. Conan bevve, dapprima meccanicamente, ma poi con un interesse improvviso. Stupefatta, Natala vide che Conan si metteva a sedere e le prendeva l'anfora dalle mani. Quando alzò il volto, i suoi occhi erano tornati normali. Dai suoi lineamenti era sparita buona parte di quell'aspetto selvaggio e la voce non era più un borbottio delirante. «Per Crom, dove hai preso questa roba?» «Da quell'alcova, dove c'è una ragazza gialla addormentata.» Il cimmero tuffò di nuovo le labbra nel liquido dorato. «Erkrom! Sento nuova vita e nuove forze scorrermi nelle vene come fuoco! Questa roba è certamente l'elisir della vita!» Si alzò, afferrando la sciabola. «Faremo meglio ad andare di nuovo nel corridoio. Saremo scoperti se continueremo ancora a stare qui. Possiamo rimanere nascosti finché le tue ferite non si saranno rimarginate.» «Io nascondermi? Non siamo mica topi per nasconderci nel buio delle tane. Lasceremo subito questa città e guai a chi cercherà di fermarci.» «Ma le tue ferite?» «Ah, non sento più le ferite. Può darsi che il liquore mi abbia dato un'illusione di forza, ma giuro che non provo né sofferenza né debolezza.» Con improvvisa decisione, attraversò la stanza fino a una finestra che la ragazza non aveva notato prima. Da sopra la sua spalla, lei guardò fuori. Una brezza fresca le scompigliò i riccioli. In alto c'era il velluto cupo del cielo tappezzato di stelle. In basso si stendeva una distesa indistinta di sabbia. «Talis ha detto che la città è un unico grande palazzo. Evidentemente alcune stanze sono costruite come torri nel muro esterno. La fortuna ci ha guidati bene.» «Cosa vuoi dire?» «C'è una brocca di cristallo su quel tavolo d'avorio. Riempila d'acqua e lega attorno al collo una striscia di quella tenda, in modo da poterla afferrare facilmente, mentre io taglio il resto.» La ragazza obbedì senza far domande e quando ebbe terminato, vide che Conan stava rapidamente annodando insieme le lunghe strisce di seta per farne una fune che legò a una gamba del pesante tavolo d'avorio. «Correremo il rischio di avventurarci nel deserto. Talis ha parlato di un'oasi a un giorno di marcia verso sud e di pascoli oltre l'oasi. Raggiungeremo l'oasi, potremo fermarci finché le ferite guariscono. Questo vino è stregato. Poco fa ero più di un morto, ma ora sono pronto a tutto. C'è ancora abbastanza seta perché tu ti faccia anche una tunica.» Natala si era dimenticata di essere nuda. Il fatto in sé non le procurava nessun turbamento, ma la sua pelle delicata avrebbe avuto bisogno di essere protetta dal sole del deserto. Mentre si annodava un pezzo di seta attorno al corpo flessuoso, Conan si voltò verso la finestra e con una mossa sprezzante strappò via le sbarre d'oro che la proteggevano. Poi, facendo girare l'estremità della fune di seta attorno ai fianchi di Natala e avvertendola di reggersi con tutte e due le mani, la alzò fino alla finestra e la calò giù per una trentina di piedi fino al suolo. La seguì subito, scivolando rapidamente, una bracciata dopo l'altra. Quando lo ebbe a fianco, Natala si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo. Erano soli ai piedi del grande muro, con le stelle che impallidivano sulle loro teste e il deserto spoglio davanti. Non sapevano quali pericoli li attendessero, ma i loro cuori cantavano di gioia perché erano ormai fuori da quella città spettrale e irreale. «Potranno anche trovare la fune, possono anche inseguirci, ma da quel che ha detto Talis io ne dubito. Il sud è da questa parte, perciò in questa direzione da qualche parte ci deve essere un'osi. Andiamo, Natala!» Prendendole la mano con un'attenzione che non era solita in lui, Conan avanzò sulla sabbia, regolando il passo su quello più breve della sua compagna. Non si voltò a guardare la città silenziosa, che riluceva spettrale come un sogno dietro di loro. Conan, quando lottavi con il mostro e poi quando sei tornato per il corridoio, hai visto qualche traccia di Talis? Il cimmero scosse la testa. Il corridoio era buio, ma era vuoto. Mi ha torturato, eppure ne ho compassione. È stato un benvenuto ben caldo quello che abbiamo avuto in quella città maledetta. Beh, si ricorderanno per un bel pezzo della nostra visita, scommetto. Ci sono cervelle, viscere e sangue da pulire via dalle piastrelle di marmo, e se il loro dio è ancora vivo, ha più ferite di me. Ce la siamo cavata con poco, dopo tutto. Abbiamo vino, acqua e buone probabilità di raggiungere un paese abitabile, anche se io adesso ho l'aspetto di uno che sia stato passato al tritacarne, e tu ti sei presa una dolorosa... È tutta colpa tua. Se non ti fossi fermato a guardare con tanta ammirazione quella gatta stigiana... Per Crom e tutti i suoi diavoli! Quando i mari sommergeranno il mondo, le donne troveranno ugualmente il tempo per la gelosia! Il diavolo se la porti, Talis e la loro presunzione! Ho forse detto io alla stigiana di innamorarsi di me? Bah, dopo tutto, era soltanto una donna! Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, l'ombra che scivola. Grazie per l'ascolto.